Hai. Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Andiamo comunque subito con la sigla di apertura per questo programma. Questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi, come ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30, siamo il 4 settembre 2025. Ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Andremo, come già detto, vabbè, fino alle ore 21:30, ma ora andiamo all'ascolto di questa band inglese. Loro sono i Ripcord, band che thrash metal, punk hardcore, che è esistita un paio di anni, proprio a metà degli anni 80. E da un album uscito nell'87 che si chiama Defiance of Power, ci ascoltiamo un paio di brani. Ripcord. Ciao a tutte e tutti voi che siete in ascolto, solo per così lanciare un po' i contenuti che verranno sviscerati questa sera di giovedì 4 settembre. Ormai siamo agli sgoccioli, siamo arrivati prossimi quasi agli appuntamenti, diciamo, contro, in solidarietà con tutti gli oppressi le oppresse palestinesi soprattutto, ma contro chi ci opprime, chi ci sfrutta e chi ci affama qui vicino, perché la guerra incomincia qui da noi. Allora, sappiamo già che il 13 di questo mese, sabato prossimo, andremo a fare un'iniziativa come assemblea No Leonardo al stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari per questa settimana in preparazione a questa importante iniziativa. Ci sarà una ultima presentazione anche a Ronchi in Piazza del Municipio, poi diremo bene, insomma, sarà venerdì 5 settembre alle 17:30 in Piazza dell'Unità a Ronchi dei Legionari, Ronchi di Monfalcone, ma abbiamo pensato di fare una specie di tandem, ecco, come possiamo dire, una specie di treno, ecco, non mi viene, come dicono in TV, un altro modo, ma con l'iniziativa importante, praticamente sorella nostra, che si sta per fare all'Aquila, davanti a un altro stabilimento Leonardo, e questa invece, questa iniziativa si svolgerà alle ore 7 di venerdì 12 settembre davanti all'ingresso del Leonardo SPA di L'Aquila. E per fare questo approfondimento avremo ospiti in collegamento dei compagni che sono attivi da quelle parti. Altre cose che vedremo, insomma, alla fine della puntata man mano vi presenteremo. Comunque questo è il menù, una puntata sulle iniziative di lotta e di solidarietà che si svolgeranno in giro un po' sia dalle nostre parti sia lontano. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, prima di arrivare proprio all'approfondimento con la compagna e il compagno dall'Aquila, di cui si parlava poco fa, volevo dare così, leggere brevemente una dichiarazione di Casey Gunan, che è un prigioniero politico dell'intifada studentesca statunitense. Lui è detenuto perché accusato dell'incendio di un'auto della polizia in risposta agli sgomberi delle accampade, e questo compagno, questa sua dichiarazione, diciamo, è della fine di agosto, ma comunque praticamente con questa dichiarazione annuncia di unirsi allo sciopero della fame di Oxa, che è una prigioniera politica di Palestine Action, prigioniera nel Regno Unito, contro la quale c'è stato un accanimento con restrizioni varie in prigione, tra cui il trattenimento della posta, insomma, angherie varie. E appunto questa compagna si è messa in sciopero della fame per far valere, insomma, i suoi diritti di prigioniera, e poi c'è stato questa, anche Casey Gunan si è unito. Ma perché parliamo di questo? È collegato al discorso, appunto, lotta contro Leonardo, quindi lotta contro chi produce la guerra e il genocidio qui da noi, solidarietà con la resistenza del popolo palestinese, quindi una solidarietà non umanitaria, insomma, ma una solidarietà verso i combattenti, le combattenti, quindi verso questa dimensione qua. E ci dice Casey Gunan: gli stati da cui siamo stati catturati sono i facilitatori del genocidio accelerato dei palestinesi da parte dell'entità sionista, così come dei genocidi in corso dei neri e degli indigeni, le cui terre continuano ad occupare. Ecco, insomma, un americano che lo dice non è poco. E comunque io aggiungo, questi neri e questi indigeni le cui terre vengono continuamente occupate siamo anche noi. E allora ci dice, vi leggo questa dichiarazione di Casey Gunan in solidarietà a T. Oxa: oggi ho saputo che T. Oxa, una prigioniera di Palestine Action nel Regno Unito, al 16° giorno di sciopero della fame presso il carcere di Peterborough, alle ore 16 del 26 agosto 2025 due delle sue tre richieste sono state accolte, ma è ancora in sciopero per chiedere al carcere di rilasciare la posta che le è stata trattenuta. Come prigionieri incarcerati per la nostra partecipazione al movimento di liberazione palestinese in Occidente, abbiamo la responsabilità reciproca, oltre i confini, di vivere la nostra vita in prigione con la stessa fermezza del movimento dei prigionieri palestinesi tenuti prigionieri nelle prigioni israeliane. Mentre la sinistra occidentale continua a passare da una crisi all'altra, evitando le proprie responsabilità nei confronti della Palestina, noi siamo tutto ciò che abbiamo. Con noi mi riferisco a chi subisce la repressione per il suo sostegno alla Palestina, a chi si sta davvero sacrificando, come T. Oxa, che ha sofferto 16 giorni di fame solo per ricevere la posta. Il movimento di solidarietà con la Palestina in Occidente non può abbandonare persone come lei, che hanno rischiato la vita e continuano a farlo per resistere all'intollerabile condizione di genocidio. Da oggi, quindi era circa il 26 agosto, io e uno dei miei compagni di cella siamo in sciopero della fame nel carcere di Santa Rita finché le sue richieste non saranno soddisfatte. Solidarietà a T. Oxa e a tutti i prigionieri del movimento di solidarietà con la Palestina. Abbattete i muri, liberate tutti i prigionieri dell'impero dei coloni. Casey Gunan. E adesso tra un brano e l'altro anche approfitto per dire che questa band che stiamo ascoltando sono gli Unfixed, band londinese che non esiste più, e comunque questo era il loro primo album datato 2014 che si chiama Punk Chaos Disorder. Allora, vi dicevo di questa iniziativa importante, questo presidio di L'Aquila davanti alla Leonardo, e ho omesso di ricordarvi che naturalmente questa importante iniziativa è anche in solidarietà con Anan, Ali e Mansour, che in particolare Anan si trova dentro il carcere di Terni e, accusato di terrorismo, ecco. E ci saranno ancora nel mese di settembre delle udienze per questa questione, insomma, che riguarda Anan, e l'iniziativa, insomma, la lotta, il discorso è un po' quello di rilanciare la resistenza, che è come pratica, diciamo, che appartiene anche alle lotte delle nostre parti, fino a prova contraria, insomma, anche nelle parti più istituzionali, insomma, non si può negare questo, e che praticamente la conclusione è questa, insomma, che la guerra, di trasformare la guerra dei padroni in guerra contro i padroni, questa qua, insomma, è la nostra bussola. Vogliamo parlare, vi dicevo, stasera con due compagni di dell'Aquila che penso siano già in linea. Ci sentite? Sì, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Saluti dalla Marsica. La parola a voi. Vabbè, cominciamo allora. Presentiamo questa iniziativa che sarà appunto un presidio che si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 7 settembre a Leonardo S.p.A. dell'Aquila, ovviamente. Uh-huh. Non confondersi con altre iniziative. È un'iniziativa, diciamo, che è legata a una campagna, diciamo, di solidarietà, o perlomeno una presenza solidale che ha seguito tutto l'andamento del processo ad Anan, Ali e Mansour, appunto tre palestinesi che sono stati proprio accusati di terrorismo internazionale. Poi, se volete, magari nel corso di questa puntata, insomma, possiamo specificare, raccontare meglio l'andamento del processo che sta arrivando a conclusione, quindi entro settembre si terranno tre udienze che, diciamo, dovrebbero portare poi alla fine del processo di primo grado. Ecco, all'interno delle iniziative di solidarietà si è voluto allargare il campo a altre iniziative che non fossero, diciamo, la presenza al tribunale, quindi si è deciso di fare un presidio sotto le Leonardo per mostrare, diciamo, un legame tra vari aspetti di quello che può essere la collaborazione dello Stato israeliano alle politiche genocide e coloniali di Israele. Ecco perché collaborazione, così velocemente, poi magari andiamo con altre questioni. Collaborazione, perché ci sono tanti aspetti della collaborazione. Uno è senz'altro la collaborazione sul piano militare. Leonardo SPA, come sapete, è un'industria di Stato e ha fornito armi costantemente per tutto il periodo dell'attacco a Gaza, quindi ha sostenuto fattivamente l'esercito israeliano nella sua operazione di attacco, di sterminio. Lo ha fatto agendo in nome del governo italiano, e questo dimostra che, al di là di alcuni distinguo di forma, in sostanza il governo italiano appoggia completamente e sostiene completamente l'operato dell'IDF. Ecco, perché invece anche il processo a questi tre palestinesi fa parte proprio dell'operazione di collaborazione? Perché questo processo è iniziato all'indomani del 7 ottobre, andando a colpire specificatamente Annan, che è stato membro della resistenza palestinese, che per questo è stato arrestato, torturato, ferito, e che è un esule in Italia da tanti anni, che regolarmente lavora e risiede all'Aquila, e lo Stato italiano lo ha perseguito su un mandato dei servizi segreti israeliani, cioè per fare un piacere ai servizi segreti israeliani, come risulta dagli atti, addirittura cercando di utilizzare come prova dei verbali raccolti dallo Shin Bet all'interno di strutture di prigionia situate in Israele, dove, secondo le organizzazioni del diritto internazionale, si fa utilizzo della tortura sistematicamente. Ecco, quindi questo dimostra appunto come l'Italia collabori con la repressione della resistenza e della dissidenza palestinese. Se posso aggiungere, ritengo un altro aspetto, ritengo che anche questo faccia parte di un processo di sterminio, cioè andare a reprimere la dissidenza palestinese all'estero, facendo capire che per i palestinesi non c'è nessun luogo sicuro, perché Israele li può colpire ovunque, e anche dimostrando così proprio che Israele ha paura di questa dissidenza, perché finché esisterà un popolo palestinese con la coscienza di esserlo anche all'estero, Israele come entità coloniale non sarà mai al sicuro. Ecco, questo penso che in linea di massima possono essere alcune questioni generali su quello che stiamo affrontando. Tra l'altro, ti interrompo un attimo, mi veniva in mente mentre parlavi anche il discorso delle accuse di terrorismo, no? Che cioè, terrorismo è, per dire, ne parlavamo anche con una compagna palestinese detenuta di vecchia data, che è stata di questa cosa dell'utilizzo del concetto di terrorismo come una sorta di lascia passare per la repressione. Però questa cosa qua vale sì per lo Stato sionista, ma vale anche per lo Stato italiano. Cioè, penso che possiamo... Sì, difatti lo Stato italiano appunto ha rifiutato di fare l'estradizione, dicendo appunto, nel caso di Annan, no? Dicendo appunto no, perché si sa che le carceri israeliane torturano, però ha rilanciato con un'accusa di terrorismo internazionale, appunto, come dicevi prima. Quindi questa spauracchio, cioè questo concetto, questa mistificazione, insomma, cioè questo trasformare le lotte in terrorismo, e poi vediamo anche con i prigionieri politici nostri, diciamo, qui nello Stato italiano. Io penso che si possa fare un collegamento. Vado io. Ma Per rispondere dividerei in due aspetti, sì, la questione politica e quella, diciamo, tecnico-giuridica. Mm-hmm. Politicamente è importante, insomma, che nella supporto che si dà qui alla Palestina venga proclamata la legittimità della resistenza, certo, palestinese. Mm-hmm. In particolare contro il colonialismo di insediamento, che prevede l'eliminazione di un popolo per sostituirlo con, diciamo, i coloni, una, mm-hmm, come effettivamente accade in Israele, non è pensabile di poter resistere se non tramite la lotta armata. Non esiste evidentemente, mm-hmm, la possibilità per il popolo palestinese di sopravvivere appellandosi al diritto internazionale, ma il popolo palestinese esiste solo perché esiste la resistenza e si difende a Gaza, in Cisgiordania, in ogni luogo. Quindi è importante che noi qua sosteniamo la legittimità di questa resistenza. Ripeto, senza questa resistenza non parleremo più di un popolo palestinese, di una Palestina, certo, lo sterminio sarebbe già stato compiuto. Invece, da su qualche aspetto, quello più processuale, ecco, chi ha seguito il processo, voglio dire una cosa, che è stato importante seguire questo processo sia per rendersi conto dell'effettiva realtà della situazione, sia perché la presenza solidale, quindi anche la pubblicità che si riesce a dare al processo, impedisce delle manovre. Mm-hmm. Noi abbiamo visto questo processo come una montatura, cioè un processo fatto con una sentenza già scritta per dimostrare che in Italia esiste una sorta di base del terrorismo palestinese. Ecco, la cosa che ci ha solamente stupito, penso a tutti, è che non si è in tutto il processo riusciti a portare la magistratura, insomma la procura dell'Aquila non è riuscita a portare veramente la minima prova a sostegno, mm-hmm, di questa tesi. Consideriamo appunto che sono stati rigettati questi documenti segreti che avrebbe dovuto fornire Israele, quindi non c'è nessun elemento, ma veramente, cioè io vi invito proprio a documentarvi su questo andamento di questo processo, non c'è nessun elemento che dimostri minimamente il tentativo di fare azioni armate o terroristiche o in Italia, ma neanche, mm-hmm, nessun elemento che dimostri che dall'Italia, cosa che comunque sarebbe ridicola, da un bar dell'Aquila dove lavoravano queste persone avrebbero organizzato azioni in Cisgiordania. Non c'è nessun elemento su questo, e l'unico elemento che alla fine poi è uscito cui si sarebbero potuti attaccare era quello del finanziamento. Anche lì poi a riscontro delle prove, al, diciamo, contraddittorio con gli avvocati, è risultato che non fosse emerso nessun tipo di finanziamento verso operazioni compiute all'estero, quindi da un punto di vista giudiziario questa vicenda si palesa come una squallida montatura, mm-hmm, per creare, diciamo, lo spauracchio di un nemico in Italia, un nemico che, diciamo, dei palestinesi, ecco, che si organizzano in Italia. Invece questo, ecco, non è, mm-hmm, emerso assolutamente nulla su questo, e nonostante ciò una persona si è fatta più di un anno di carcere, altre persone sono inquisite con rischio poi di essere anche condannate, perché noi riteniamo che la condanna, ripeto, era una condanna scritta, non pensiamo che sia facile per queste persone uscire da questo incubo giudiziario, ecco, però ripeto, qualcosa che non ha veramente benché minimo fondamento. Non so, io pensavo anche questo, che oltre che le pratiche da difendere, da sostenere, e quello che possiamo fare qui noi, c'è anche la questione, appunto, che richiamavate nel testo di lancio, sulla resistenza agli occupatori. Ma non solo, adesso mi viene in mente anche, forse non c'entra tanto, ma così la butto lì come suggestione, che a un certo punto, se non sbaglio, anche quando nella Costituente c'era la possibilità di inserire il famoso la clausola sulla disobbedienza, no? Sulla possibilità di disobbedire agli ordini, se gli ordini sono appunto illegittimi, appunto, politicamente, no? Perché c'erano questi parlamentari che avevano fatto i partigiani, alcuni insomma, e che avevano tirato fuori anche questa così questo elemento che volevano fosse messo scritto nero su bianco. E poi la questione è tornata fuori, guarda caso, nei cosiddetti anni di piombo. A un certo punto, nei vari processi contro le organizzazioni rivoluzionarie, qualcuno aveva anche sollevato questo, chiamiamolo cavillo, però non cavillo, per dire che loro, appunto, comunque questi compagni avevano attaccato degli quelli che loro ritenevano occupatori, che erano appunto generali, nella fattispecie americani, no, della NATO, perché appunto si trovavano come occupatori e rivendicavano questa cosa, insomma, storica, ecco, tutto qua. E, niente, questa cosa qua mi veniva in mente. Allora, non siamo esperti di diritto costituzionale, quindi la questione specifica non la possiamo affrontare, però penso che possiamo affrontare da un altro punto di vista, da un altro angolo d'attacco, la questione, diciamo, di come le nostre coscienze devono affrontare la realtà che viviamo, perché siamo di fronte a un evento storico per la gravità estrema, quella di un genocidio trasmesso in diretta, un genocidio di cui tutti possono avere coscienza, quindi o possono essere consapevoli che sta avvenendo, e quindi è chiaro che è necessario, al di là di qualsiasi dubbio, fare il massimo sforzo per non essere complici, perché anche la non attivarsi, non fare nulla, non prendere posizione, non uscire di casa per cercare di fare qualcosa è comunque un elemento di complicità, quindi è necessario, secondo me, che tutti facciano uno sforzo e che ci si attivi sempre di più, molto di più di quello che si è fatto nei prossimi mesi, per cercare di dare il nostro contributo per fermare questo crimine contro l'umanità, chiamiamolo così, che sta avvenendo. Sì, che appunto non è sufficiente un intervento di tipo umanitario, ma bisogna fare pressione in ogni, diciamo, ambito della società, perché ci sia un distacco da il progetto israeliano di sterminio. Quindi perché la filmeccanica non mandi le armi, perché in qualsiasi maniera, diciamo, venga sabotato, boicottato, impedito questo progetto di sterminio. È chiaro che nessuno da solo lo può fermare, però è anche vero che sicuramente in tutto il mondo ci sono la maggior parte probabilmente delle popolazioni, sia fuori dall'Occidente sicuramente, ma anche dentro l'Occidente, scalpitano e non sopportano quello che sta accadendo, quindi ognuno deve dare il proprio contributo, perché noi pensiamo sempre che sia possibile fermare il genocidio, fermare il progetto coloniale, e quindi, insomma, ci sono tantissime possibilità in Italia per agire, le diciamo alcune, perché agire contro le fabbriche d'armi, contro la ricerca di Israele, contro la logistica, come è avvenuto nei porti, per cercare di rallentare la logistica di guerra. E visto che voi vi trovate in Friuli, per voi non per ultimo cito anche la partita Italia-Israele, che è molto importante, perché chiaramente l'annessione della partecipazione di Israele alle competizioni sportive europee serve ovviamente per condizionare l'immaginario collettivo e a farlo abituare, insomma, un'amicizia verso questa colonia, questo paese coloniale. Quindi è importante in tutti questi ambiti cercare di bloccare il più possibile, ad esempio impedire che si faccia questa partita, impedire che la meccanica manda le armi, impedire che i porti lavorino per Israele. Penso che sia possibile farlo e dipende dalla volontà di molti di attivarsi. Certo, e quindi appunto si diceva la guerra inizia qui, fermiamola qui, il genocidio inizia qui, fermiamolo qui. Vi chiedo, rispetto all'appuntamento alle 7 del mattino davanti allo stabilimento, la scelta di questo orario, diciamo, lavorativo è proprio anche per così tentare un coinvolgimento anche dei lavoratori, delle lavoratrici, non so. com'è la situazione lì dello stabilimento specifica di là, dell'Aquila? Sì, allora, magari do io qualche informazione un po' più nello specifico di questa iniziativa del 12. Sì. E chiaramente lo stabilimento dell'Aquila, al di là di essere appunto all'Aquila, ovvero nello stesso luogo dove si sta svolgendo il processo di Annan, veramente a pochi chilometri da quel tribunale, che appunto l'Aquila non è stato un posto e una procura scelta a caso anche per quanto riguarda, diciamo, lo svolgimento di questo processo, no? Per riuscire, come si è già detto ampiamente prima, no? A portare a termine in mezzo a queste montagne una sentenza già scritta fondamentalmente per Annan e per gli altri palestinesi Ali e Mansour, che sono stati coinvolti e buttati in mezzo all'interno di questo processo. Sì. Quello che si vuole fare è appunto anche riuscire a tirare fuori quella che è la complicità proprio di questo stabilimento, che è nato nel 2017 come un'eccellenza insieme a tale Salenia, per quanto riguarda lo sviluppo proprio su questo territorio anche dell'Aquila. Infatti l'Abruzzo ha anche altri due stabilimenti molto importanti che collaborano direttamente proprio con il genocidio e con alcuni sistemi di arma e di puntamento e di radar e di identificazione che vengono utilizzati in Israele, sì, proprio per telecomandare e dare quel sistema di riconoscimento degli obiettivi, quelli che sono i nemici. Quindi è esattamente l'esempio, è uno di quei componenti che compongono la guerra di sterminio che viene portata avanti. Quindi per questo la guerra parte anche da qui e parte anche da questo stabilimento. Per quanto riguarda l'appuntamento delle 7 del mattino, allora un altro dato è che questo stabilimento che si trova, sono due stabilimenti uno fronte l'altro, che è tale Salenia e Leonardo, fanno parte di progetti internazionali appunto di creazione di questi nuovi sistemi che verranno poi adottati anche a livello internazionale già con commesse fatte, perché diventeranno il nuovo sistema di riconoscimento, ha fondamentalmente circa 450 dipendenti al suo interno, dipendenti che parliamo di dipendenti di altissima specializzazione e che hanno un chiaro una chiara conoscenza e coscienza di quello che stanno compiendo e di che cosa stanno progettando all'interno di questi due stabilimenti. Di conseguenza l'idea di fare questa assemblea pubblica contro tutti quelli che vogliono bloccare e attivarsi contro questo genocidio e bloccare appunto i gangli di questo sistema, l'appuntamento delle 7 del mattino è proprio affinché si possa quantomeno mettere un granello e cercare di in questi ingranaggi e rallentare per quanto è possibile con determinazione la produzione della guerra e anche della sua progettazione. Di conseguenza il rapporto con i lavoratori vedremo che cosa ci troveremo di fronte, ma sicuramente diciamo partiamo da un dato di fatto che chi sta lavorando all'interno di quegli stabilimenti è complice tendenzialmente, sì, sono quasi tutti ingegneri o tecnici super specializzati, sì, specializzazione, non è un posto diciamo di produzione di operai. Sì, esattamente, non è un posto di operai ed è un posto appunto di super eccellenza dove sempre nuovi progetti vengono approvati e vengono proprio dislocati in questa parte proprio di territorio anche che è il centro Italia, che stiamo vedendo a moltissime infrastrutture che hanno un dual use o almeno un formale dual use, che invece stanno subendo una riconversione all'interno di un discorso invece militare. Tra l'altro anche qui che è un'altra periferia diciamo, no, italiana, sì, anche qui per dire parlavano di 90 aziende tutte meccaniche o insomma di questo tipo che vogliono riconvertire, cioè c'è questa proposta di riconversione nell'industria bellica, sì, aziende che prima facevano per dire cingoli per i trattori piuttosto che bombole del gas, che hanno progetti appunto di mettersi a fare proiettili, eccetera. E per dire, anche a Ronchi, così giusto facciamo un gemellaggio, a Ronchi sono 340 circa gli addetti. Da quello che abbiamo capito c'è anche una parte, diciamo, più di operai specializzati, ma comunque non solo tecnici. Però da quello che ci dicevano c'è una divisione molto netta, diciamo, tra i camici bianchi e i camici blu, ecco. E quindi in qualche maniera i ricercatori e gli ingegneri, eccetera, insomma, quelli che fanno lavoro più sì, teorico, e sono distaccati, diciamo, da chi poi alla fine produce, perché c'è questa, insomma, ci segnalavano dal paese lì che c'è questa netta divisione. Ecco, per noi ad esempio è molto difficile avere contatti, anche perché lo stabilimento di Ronchi è praticamente una base militare, cioè non hai accesso dalla strada, confina con l'aeroporto. Però è tutto blindato, non è sì, non è come per dire, noi abbiamo l'esperienza di Tessera, ad esempio. Tessera, lo stabilimento è sulla strada che porta all'aeroporto, una strada trafficata, mentre lì non è così, assomiglia un po' a un carcere di massima sicurezza, diciamo, come impatto. E no, per dire questa roba anche di come questi colossi distruggono, impattano e anche distruggono proprio i territori, no? Dove vengono collocati, cioè è un colonialismo anche interno ai territori dove vengono collocati. Nel caso dell'Aquila, come dicevi tu, questa roba di dire riqualifichiamo l'area, poi dopo il terremoto, no? Che hanno fatto tutti le ristrutturazioni, eccetera. Qua, anche qua, l'eccellenza, la zona depressa che viene così sviluppata economicamente, insomma, valorizzata da queste imprese criminali. Sì, niente, insomma, anche questa cosa qua è, secondo me, insomma, è importante. Sì, importante anche perché possiamo vedere che su tutto il territorio quantomeno italiano, se abbiamo una dislocazione appunto di industria bellica che è veramente disseminata in ogni dove, questo sì, è sì. Anche no, potrebbe essere anche un punto di forza per il quale in ogni punto si può realmente bloccare e non essere complici e interrompere quella normalità di produzione della macchina bellica. Ad esempio, ci sono stati vari, tu avevi citato Tessera, anche l'anno scorso ci sono stati due iniziative, un'iniziativa alla Leonardo appunto lì di Tessera che si fece proprio per provare a mettersi, no, in mezzo proprio e non essere complici, così anche come piccole quelle che possono sembrare delle piccole fabbriche con un centinaio di dipendenti sui territori sparsi anche nella campagna romana del Viterbese, tipo la Gelco, è stato fatto anche lì dei presidi per bloccare comunque almeno per quanto è possibile la produzione comunque di armi o di componenti che contribuiscono al genocidio e contribuiscono a massacri che vengono svolti in varie parti del mondo. In questo volevo invece aggiungere una cosa prima che aveva a che fare anche con il discorso di Annan e di quanto c'è questo discorso di collaborazione e quanto anche di riconoscimenti che in questo processo c'è stato praticamente dai telefoni sequestrati ad Annan il fatto che sono stati eliminati dopo il 7 ottobre tutti quelli con i quali risultavano delle foto dai telefoni a lui sequestrati, e questo appunto è stato anche un altro elemento dei sistemi ipertecnologici di riconoscimento e di questi esperimenti che sono stati fatti appunto con il contributo della Leonardo e di varie altre eccellenze, diciamo, italiane di ricerca per quanto riguarda la costruzione di queste città super controllate come Hebron, come Tulkarem, come moltissime altre in Cisgiordania, e questo ha contribuito all'identificazione, al riconoscimento e all'uccisione di questi altri combattenti che si trovavano appunto dal 7 ottobre in poi, e sono stati poi identificati tramite riconoscimenti appunto e di intercettazioni che l'Italia ha fornito allo Stato di Israele, quindi una completa diciamo collaborazione e complicità sotto tutti i punti di vista e su tutti i livelli. Per questo secondo me interrompere costantemente, no, il fluire di questa produzione, di queste collaborazioni è ciò che potremmo cercare di iniziare tutti è importante. E tutte a fare con queste iniziative appunto che si stanno appunto congiungendo, nel senso il 13 l'iniziativa che viene fatta nel territorio dove voi siete, il 12 qui ci sarà, certo. Poi il 4 ottobre la manifestazione nazionale a Roma convocata da palestinesi e dalle palestinesi. Diciamo che abbiamo una serie. Poi il 14 ottobre ci sarà qui anche il corteo contro la partita, contro la di partita, cui si parlava prima, sì. Sì, volevo dire a proposito della partita, non è un caso che hanno scelto e che non vogliono mollare Udine, perché comunque è un per questione di ordine pubblico a loro gli va bene, a loro governo gli va bene di farla lontano, no? Nelle nostre parti, come sempre qua, lande desolate. Quello che succede invece, che non succede nel Paese Basco, dove hanno bloccato la tappa della Vuelta, ieri undicesima tappa senza vincitori, dice il Corriere qui, cioè si sono interposti e hanno bloccato una squadra israeliana e sono riusciti insomma a far fallire la tappa. Ecco, sono piccole cose però che in alcuni territori dove i rapporti di forza sono favorevoli ovviamente riescono bene e no, qua faremo quello che possiamo, ma i rapporti di forza non ci aiutano, ecco, a me sembra almeno un contesto un po' ostile. E invece per la Leonardo di Ronchi è così un po' un terreno nuovo da dissodare, nel senso che c'è una pseudonormalità, no? Che è quella appunto di cui parlavate anche voi, dell'eccellenza, per cui quella lì è una realtà del tessuto economico vista come vincente, anche se in crisi perenne, no? Commesse nei vari decenni, comunque è vista come un punta di diamante, no? Perché comunque zone di confine, zone militarizzate, quindi era sempre visto come qualcosa, un contributo che dava la gente di qui, no? alla difesa dell'italianità di questi, sì, della presunta italianità di questi territori. Ma lì appunto si tratta un po' di tagliare questo velo di pseudonormalità, perché che normalità non è, anche perché comunque all'interno di questa cappa di cui parlavo adesso, insomma, che magari neanche chi ci ascolta da qui vicino ce l'ha tanto presente. E all'interno di questa cappa c'è anche insomma una controstoria fatta di chi ha lottato, chi ha cercato di contrastare, di chi è salito sul carso in tuta il 10 settembre del 43 e è andato insomma incontro al destino, contro gli occupatori di quella volta. Comunque non so io cosa, come. Sì, no, a me, sì, quello che dicevate, sia la compagna dall'Aquila che il mio compagno qua, no, il discorso di bloccare e anche di svelare, no? No, adesso siccome mi è venuto su, Ho letto l'opuscolo che avete curato, l'opuscolo in divenire che avete curato, e boh, mi è venuto sul contributo l'articolo sul farsi apocalittici. E, sì, che è, cioè, adesso al di là della, magari può sembrare una roba così, come posso dire, ambiziosa, in realtà quel discorso lì del significato di farsi apocalittici, quindi appunto di bloccare, quindi di interrompere, diciamo, la normalità della necropolitica, della vita, della morte in vita, insomma, che ci stanno apparecchiando, ma anche di appunto svelare, cioè, quindi anche rispetto a queste comunità dormienti, diciamo, parlando di queste zone, di questa difficoltà a voler vedere, no? Anche il fatto di bloccare costringe anche queste persone, le persone che vivono in un certo posto, insomma, in un certo territorio, le costringe in qualche maniera a vedere, no? Non possono più far finta di che tutto procede come zombie, cioè. E quindi è importante questa doppia dimensione qua, insomma. E sì, questo delle lotte, insomma, è, secondo me, è una cosa importante, vitale, che poi si può fare, giustamente, come dite voi, anche se proprio il fatto che anche certe volte i punti di debolezza possono diventare punti di forza, no? Se si riesce a capire, insomma, ecco, cosa fare. E poi importante questa roba di questa cosa della solidarietà, appunto, non umanitaria, quindi ritornando ai compagni resistenti della Palestina, questa, appunto, questa solidarietà non umanitaria, ma questa solidarietà ai combattenti, che sono al di là dell'aspetto che si diceva prima, giuridico, non giuridico, legittimità o non legittimità dal punto di vista dello Stato, diciamo, di queste lotte, ma sono combattenti per la libertà del loro popolo e per la libertà di tutte e tutti noi, io penso, insomma, perché sì, se Israele è un laboratorio, come si diceva, una sperimentazione che gli stati in generale tendono a, lo dimostrano, insomma, tendono a prendere, a far propria, per stringere, cioè per costruire questa, sì, quello che sta succedendo, insomma, un po', perché penso che si possa dire, no, che la, cioè, insomma, al di là dei tecnicismi, è in atto una sorta di guerra al vivente, no? E, che si manifesta in varie forme. Quindi il militarismo è appunto la produzione di morte, di guerra, è diffusa anche in tutti gli aspetti della vita, insomma. Quindi opporsi a questo è importante, cioè, in tutti i modi. Certo, se posso aggiungere, quando vediamo che i principali centri politici, economici a livello mondiale, in maniera aperta, dichiarata, senza nascondere nulla, pensano di realizzare un'operazione che comporta la distruzione, la dispersione della una popolazione di milioni di persone, oltre un milione di persone, che risiede a Gaza, per sostituirla con un'operazione edilizia commerciale, sì, quindi per mettere a profitto quei terreni in senso capitalista, con investimenti di denaro, per fare circolare denaro, per speculare a livello edilizio, diciamo, in totale disinteresse dell'esistenza umana, della vita che lì risiedeva, che viene appunto dispersa, cacciata, eliminata. Le stesse persone sono quelle che governano anche qui tutto il mondo. Beh, penso che chiunque dovrebbe porsi delle domande su chi abbiamo di fronte e sui pericoli che corriamo anche noi una volta che vengono sdoganate queste pratiche, perché ricordiamo che comunque la tendenza alla guerra come, diciamo, risoluzione di problematiche economiche, sociali, politiche, è generalizzata e si sta alimentando in ogni continente, Africa, Asia, Sud America, con tensioni tra gruppi di paesi capitalistici che sono sempre più forti ed evidenti. Quindi quello che succede in Palestina è il fatto che un'intera popolazione venga considerata una massa eccedente rispetto ai progetti del capitale, è qualcosa che dovrebbe allarmare chiunque. Ma oltre quella fondamentale, diciamo, sensibilità e presa di coscienza per i destini di questi umani come noi, cioè fratelli nostri, ma perlomeno, ma oltretutto anche per la nostra stessa sopravvivenza, mm-hmm. perché ripeto, chi decide in quella maniera brutale il destino di queste persone poi decide anche del nostro. Sì. Non è un mondo separato, fa parte dello stesso, certo. dello stesso sistema di gestione mondiale, dello stesso capitalismo, dello stesso sistema imperialista che decide delle nostre vite, e domani potremmo trovarci noi in queste condizioni. Non è una cosa astrusa o impensabile. D'altra parte, in questi anni sono avvenuti dei fatti, dei fenomeni che probabilmente neppure noi avremmo pensato. C'è una guerra in Europa, c'è una guerra che si sta diffondendo in tutto il Medio Oriente, al di là della situazione specifica della Palestina di Gaza. Insomma, questa è la situazione che abbiamo di fronte, sulla quale dobbiamo avere contezza, ma anche organizzarci per affrontarla, organizzarci collettivamente per affrontarla. Non è uno scherzo quello che sta accadendo, evidentemente. No. Quindi a volte possiamo essere bloccati dal fatto che ci troviamo di fronte a eventi più grandi di noi, delle nostre vite, però io penso che appunto collettivamente dobbiamo ragionare su come diciamo, come anche nei nostri territori dobbiamo affrontare questo, mm-hmm. e come ci sia una guerra tra il capitale, che gestisce il capitale, che gestisce l'apparato tecnologico industriale, che gestisce la finanza, e tutti gli sfruttati, perché gli sfruttati sono fratelli in ogni parte del mondo, appartengono alla stessa categoria. Quindi insomma, ecco, c'è molto lavoro da fare, sì. sicuramente. Sì. Forse anche un cambio di mentalità, ecco, che il mondo negli ultimi anni è cambiato, non siamo più nella lunga pace capitalista che ha governato un trentennio, ecco, siamo in un'altra fase, questo è evidente, insomma. Mm-hmm. Bene, non so, voi avete qualche altra cosa? Beh, possiamo ricordare di nuovo l'appuntamento, e poi potremmo sì. Io stavo sfogliando appunto l'opuscolo, potremmo finire con una leggendo qualche riga di Annan, delle sue dichiarazioni, della dichiarazione del 18 giugno. Sì, le potete leggere voi dallo studio. Sì, sì, ce l'ho qua sotto gli occhi. Beh, ricordiamo intanto l'appuntamento. Allora, venerdì 12 allora, settembre. Venerdì 12 ottobre. Settembre. Scusa, ho sbagliato. Venerdì, l'avevo anche scritto grande, sì. mi dimentico le date. Venerdì 12, no, ho scritto ottobre, ecco perché ho sbagliato. Ecco. Venerdì 12 settembre alle ore 7 davanti alla Leonardo all'Aquila. Perfetto. E in più ricordo anche che ci saranno tre date, sì. per chi volesse venire, presenziare, partecipare. Tre udienze all'Aquila, il 19, il 26 e il 30 settembre. Ecco, tre udienze del processo Ali e Mansour. Perfetto. Se passo un attimo il telefono, no. E poi anche vorrei approfittare prima che ci insomma per ringraziare, sì. ringraziare intanto per l'ospitalità e anche insomma ecco per dire a tutti in tutta Italia di unirsi ognuno diciamo con le possibilità che ha e cercare di creare anche nei prossimi mesi, siamo in un momento proprio centrale dell'attacco a Gaza, di cercare di creare un movimento che ci possa sorprendere in qualche maniera rispetto alla rassegnazione che ci ha anche per troppo tempo accompagnati, e dare una svolta a questa situazione. Secondo me, se tutti ci uniamo, lo possiamo fare. È un bel invito, certo, giusto? Certo. Allora io leggo, dice Annan: non sono uno che è stato arrestato normalmente, perché sono stato arrestato in Italia dietro richiesta delle autorità israeliane, però siate certi che nel futuro cambierà tutto e la resistenza palestinese scriverà la storia, e i figli della resistenza palestinese saranno i nuovi eroi del futuro, e tutti quelli che sono complici dell'occupazione ne pagheranno le conseguenze. I nazisti vennero processati e condannati dal tribunale di Norimberga. Eichmann fu condannato a morte e giustiziato in Israele per le sue azioni e i suoi crimini. Questo sarà il destino che attende i complici dell'occupazione. La mia libertà non mi interessa più. perché nessuno mi aspetterà fuori della prigione, perché tutti i miei compagni e tutti i giovani i cui nomi sono stati citati nell'indagine sono stati martirizzati dall'esercito israeliano e hanno nutrito la terra palestinese con il loro sangue. Viva la Palestina libera e araba, viva la resistenza palestinese, viva tutti i martiri palestinesi. Annan Yaesh. E con queste parole, sì, vai. Penso che ci possiamo salutare. Sì. Grazie. E grazie a voi. E a presto. A presto. A presto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, questi che stiamo ascoltando sono i Rastars, band londinese, anzi della zona est di Londra, e dal loro album A Sickness of the Mind del 2013 ci stiamo ascoltando alcuni brani, tra cui a questo che appena ascoltato si chiama Independencia, ma così essendo 2013 ci ascoltiamo il prossimo che si chiama niente poco di meno che Drone Attack. Ah! Logan, just 3 weeks after the court injunction against the Uganda Rolling Stone, witnesses saw three men in a vehicle parked outside of David's home. What was to transpire was the brutal bludgeoning to death of David Cutler with a hammer. Bana Uganda na ferwachi mtu sosola tubere mtu omu kula na ya government ne bana nyinyo bakuchu nabo bantu. Bene, abbiamo ascoltato direi abbondantemente tre brani di questa band londinese, anzi dell'est di Londra. Loro sono i Restarts, dal loro album datato 2013 A Sickness of the Mind. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band che si è formata a metà anni 90 e per 5 anni si è chiamata Wolfpack, che dal 2000 poi sono diventati Wolf Brigade, ma noi come Wolfpack andiamo ad ascoltarci questo, alcuni brani da questo album che si chiama All Day Hell, Wolfpack. We'll be right back. ancora in voce qualche minuto, spero di non andare troppo lungo, perché volevo ribadire, volevo riprendere, volevo rifare questa cornice della puntata di stasera del 4 settembre, dove abbiamo parlato alla fine di resistenza, non a caso, perché si sta svolgendo, mentre noi stiamo realizzando questa puntata, insomma, stasera, si sta svolgendo a Trieste un importante 3 giorni di lotte, di comunque una risposta chiara all'operazione repressiva condotta dagli organismi statali per censurare e boicottare, nascondere, delegittimare e depoliticizzare le pratiche di lotta messe in piedi dai compagni il 25 aprile. 25 aprile Trieste, dove è diventato un baraccone ignobile con la risiera a cui, insomma, abbiamo parlato altre volte, l'accesso alla risiera viene limitata, viene sottoposta, le persone vengono sottoposte a come si chiama? Metal detector e così, insomma, una roba che non sta né in cielo né in terra, per ancora una volta per insabbiare, per asfaltare quell'importante tappa del percorso di liberazione degli oppressi. Allora, l'ho fatta già lunga, oggi c'era il dibattito in piazza Perugino dalle 18, quale sicurezza, su repressione zone rosse, securitarismo per decreto, sicurezza reale e a seguire aperitivo e cena condivisa con anche, scusate, ho saltato, e a presentazione di Police Abolition, che è un opuscolo di cui parleremo anche da questi microfoni più avanti. Domani anche Zone Antifa si sposta a Ronchi, in piazza Unità, appunto, per la presentazione del corteo contro Leonardo. Infine sabato banchetti, dibattiti, socialità sotto, appunto, il segno del sabotare la guerra. Allora, la guerra ai migranti, la guerra che parte da qui, quindi con questo appiglio della fabbrica del colosso italiano, appunto, Leonardo, la fabbrica di droni. E infine abbiamo anche la guerra sui corpi e la fascistizzazione sui corpi, e una laboratoria per persone flinta con smarza transfem queer, e a seguire festa con una line up anche ancora da definire. Tutto il giorno bar e cibo, benefit per la cassa antirepressione. Si svolgerà dalle 16 sabato, quindi 6 settembre, dalle 16 a San Giusto. Invece si sposta a San Giusto. Mi pare che sono un po' tardi, l'ho fatta lunga, possiamo anche salutarvi. La linea ritorna alla regia. Bene, ho sfumato comunque perché siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30 ogni giovedì, anche oggi 4 settembre 2025. E lasciamo appunto, come ho detto, in sottofondo questa band che ho presentato prima, ovvero i Wolfpack. Non ho detto che sono svedesi di Stoccolma, che hanno poi cambiato il nome in Wolf Brigade, eccetera eccetera. Comunque li abbiamo passati più volte in questa trasmissione, e come di consueto a fine trasmissione vi leggo i nostri contatti, che se volete scriverci tramite, insomma contattarci tramite posta elettronica, potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle volte scorse, potete riascoltarci nel blog zardismagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardismagneticsradio.noblogs.org. Poi vabbè, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e salutiamo anche chi ci ascolta sulla web radio dalle ore 17 domani venerdì 5 settembre su Radiazione. Bene, ciao a tutti e al prossimo giovedì. Dimenticavo che anche ci ascoltiamo un ultimo brano velocissimo per questa band londinese, abbiamo già preparato, e loro sono i Maynoff. Oh, God! Yeah, man! Why?